Signore e signori, bentornate e bentornati alla sesta puntata di Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021. Una pillola quotidiana di avvicinamento al concorso Eurovisione della canzone che avrà luogo a Rotterdam nei Paesi Bassi il 18, 20 e 22 maggio prossimi venturi. Stiamo ripercorrendo le canzoni che prendono parte alla prima semifinale, quella in programma il 18 maggio, che su 16 paesi partecipanti ne qualificherà 10 alla finale del 22 maggio. Alla nona posizione in scaletta nella prima semifinale c'è Tix con Fallen Angel e rappresenta la Norvegia. What can I say? I can't make her stay. When I know that she's so far above, how could she ever love someone like me? She's out of reach. Here in the dark, inside the hole in my heart, I'm fighting all of my demons, trying to tear me apart, and I'm still not sure what you ever saw. Lui si chiama Andres Aukeland, ma il suo nome d'arte, quello con cui lo vedremo in scena, è Tix. Tix, proprio sì, proprio così, come i tic nervosi. Ed è il soprannome che i bulletti della sua classe gli avevano affibbiato, perché Tix porta gli occhiali, ha la sindrome di Tourette, quindi si nasconde i rapidi movimenti degli occhi con occhiali neri. La canzone si chiama Fallen Angel. Si esibisce vestito da angelo, un po' con questi rapper, catene da rapper, circondato da diavolacci tutti neri. Ed ecco perché ieri avevo detto aspettate, perché di diavoli parleremo anche domani. Fallen Angel, angelo caduto, lui è Tix per la Norvegia. Il ragazzino sfortunato, il brutto anatroccolo che Tix diceva di essere una volta, si è trasformato in un cigno quando nel 2015 la sua Chicken è diventata un inno del russo, che è la festa del diploma, della maturità dei ragazzi norvegesi. Ha fatto un contratto in America e ha scritto Sweet But Psycho di Ava Max, che è diventata una delle canzoni più suonate nel mondo nel 2018. Famoso per aver scritto Quarantine, l'inno del lockdown, nel maggio 2020. Ha poi partecipato al Melody Grand Prix e l'ha vinto. Vi dico un segreto, questa Fallen Angel, angelo caduto, si chiama come un film di Wong Kar-wai, Angeli Perduti, era la traduzione in italiano, un film dei primi anni 2000. Ma il segreto è che è una delle mie canzoni preferite, perché dopo quella che, insomma, nella cui squadra gioco e dopo quella che guardo con simpatia, ma scopriremo quali siamo, dopo le mie due squadre, è la mia canzone preferita, lo confesso. E oggi andiamo nei dintorni di Rotterdam a scoprire il faro dell'Olanda meridionale, a Westhoofd, nella provincia di Loudorp. Tra le dune vicino al Groenendijk è una luce di ricognizione che bruciava sul Toren van Gudrede dal 1552. E siccome questa luce non era abbastanza visibile, fu costruito un faro tra il 1911 e il 1912. È stato il primo faro olandese in cemento armato, ma il 5 maggio 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale, il faro fu distrutto dagli occupanti tedeschi, anche se le ottiche erano state poste in salvo. È stato ricostruito dopo la guerra ed è tornato a illuminare la notte nel 1950. Per la sua costruzione, pensate, sono state usate i tondini di ferro della vecchia struttura in cemento armato, restaurato recentemente, è riaperto al pubblico, anche si può visitare dal 2019. E dopo la nostra gita a Oudorp, nelle paludi dei Paesi Bassi, è venuto il momento di tornare in Norvegia, di fare un viaggio nel tempo. Ci trasferiamo infatti nel 1985, all'inizio dell'estate, sarà l'estate del Live Aid, sarà l'estate di Strangest Thing, sarà l'estate di Boris Becker che vince a Wimbledon. Me, I'm climbing up, I'm up. Le Bobby Sox erano un duo pop, erano la norvegese Hanne Krog e la svezio-norvegese, norvegio-svedese Elisabeth Andreassen, e hanno vinto appunto nell'85 con questa Let It Swing, o Love It Swing. Per l'Italia c'erano Albano e Romina Power con la canzone Magic o Magic, tirati dal maestro Fio Zanotti, si classificarono al 7° posto. Era proprio l'anno del sax, il 1985. In Italia è l'anno in cui le classifiche estive saranno dominate da L'estate sta finendo. Le classifiche britanniche vedranno troneggiare al numero 1 l'analoga Frankie delle Sister Sledge. Su memoria degli anni 80, questo sax finto che poi dopo sono sfumate, non sono arrivate al presente, un'immagine. Tutti i suoni sintetici, elettronici, sì lo erano, ma emulavano atmosfere del passato. In questo caso appunto Let It Swing, l'inno delle ragazze norvegesi in vacanza in Inghilterra, cantato dalle Bobby Sox e vincitore dell'Eurovision Song Contest 1985. Abbiamo fatto un viaggio nel tempo, abbiamo preso la DeLorean, siamo arrivati nel 1985, beh, dove potevamo arrivare se no, con questa Let It Swing delle norvegesi Bobby Sox. Signore e signori, avete ascoltato aspettando l'Eurovision Song Contest 2021. Oggi siamo andati in Norvegia, ci siamo rimasti con Tix e la sua Fallen Angel. Poi abbiamo continuato il viaggio nel passato andando alla prima delle vittorie norvegesi nel concorso, quella Let It Swing nell'estate del Live Aid, nell'estate di Boris Becker vincitore a Wimbledon, nell'estate del Verona scudettato, nell'estate che stava finendo era l'estate del 1985. L'appuntamento è a domani o ai prossimi giorni con un'altra puntata di Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021. Io sono Eddie Anselmi e l'appuntamento è su questa frequenza.